petite présentation donc, de nos deux autres intervenants. Donc, pour des raisons bêtement chronologiques, on fait commencer Silvia Di Paolo, qui a achevé, qui est chercheuse et enseignante à l'université de Roma Tre, qui a achevé sa thèse en 2008 sur un juriste italien, du Quattrocento, et qui, depuis, mène un certain nombre de recherches sur le rôle de la visite pastorale à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. J'ai noté la référence à un article donc, que tu as fait paraître récemment sur ces mécanismes juridiques de la visite pastorale dans un ouvrage collectif intitulé « Der Einfluss der Kanonistik auf die Rechtskultur ». Et j'en profite pour présenter immédiatement Paolo, même s'il parlera après la pause. Paolo Napoli est directeur d'études à l'EHESS, directeur du Centre d'études et des normes juridiques Yann Thomas. Et ses recherches se situent à la rencontre systématiquement de la philosophie, l'histoire du droit. Et le droit, il s'intéresse depuis quelques années maintenant aux pratiques en fait, qui sont reliées à la notion de normativité. Donc on est vraiment en plein dans le thème. Aussi bien à la police qu'à l'administration et même au management, dont il cherche les racines, entre autres, dans la visite pastorale de la fin du Moyen-Âge. Donc on a vraiment deux chercheurs qui s'intéressent de très près à cet objet si particulier. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle il nous a semblé intéressant de les réunir et de leur faire discuter cet article de Jean-Louis Alperin, précisément parce que ils travaillent tous deux sur des formes très souples et des formes labiles de normativité qui parfois nous font sortir d'une acception très restrictive du droit. Et il nous semblait intéressant, ne serait-ce que pour des raisons méthodologiques, d'interroger les définitions parfois rigides que peuvent donner les historiens du droit et du système normatif qu'est le droit. Donc d'interroger ces définitions rigides à la lumière d'enquêtes empiriques qui portent davantage sur la notion de normativité. Alors je pense que c'est quelque chose sur laquelle on pourra revenir dans le cadre de la discussion, mais donc ne serait-ce que ce travail définitoire qui reste encore et toujours à faire de la notion de norme, mais aussi de celle de système normatif ou de régime de normativité. Ça c'est peut-être, sans vouloir jouer sur les mots, c'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra revenir. Je laisse la parola a Silvia immediatamente. Grazie. Innanzitutto scusate, io parlerò in italiano, cerco di parlare, penso che tutti parlate italiano, so benissimo, ma comunque cercherò di parlare lentamente. E grazie ovviamente agli organizzatori per questa proposta di partecipare al seminario sull'invenzione delle norme e ovviamente grazie infinite al professor Alperin per averci accettato di discutere diciamo, con noi del suo saggio, il diritto e le sue storie, che devo dire solleva veramente moltissime questioni fondamentali sul rapporto tra storia e diritto. E per riprendere diciamo, una sua espressione, devo dire che lo fa proprio con attraverso diciamo, un caleidoscopio di approcci, devo dire. Perché appunto dalla validità di una lettura storica del diritto alla storicità stessa del diritto, dall'invenzione alla scomparsa più o meno silenziosa diciamo, di un ordinamento e dalla pluralità di terreni da indagare a proprio alla pluralità degli strumenti di ricerca da utilizzare. Dunque, tematiche diciamo molto vaste, veramente di interesse dei studiosi ecco, di devo dire tante discipline, storici generici e specialisti, giuristi e in particolare poi ecco gli organizzatori hanno sottolineato alcuni profili, non so se si sente bene. Sì, sì. Hanno sottolineato alcuni profili apparentemente più circoscritti, ma che devo dire invece avviano, proprio si risolvono in teorizzazioni di problematiche secondo me anche ancora più ampie. E allora provo a raccogliere, diciamo, alcune suggestioni date dal professor Alperen alla luce di alcune delle questioni che avete posto. E però sono consapevole di farlo da una prospettiva, diciamo, un po' particolare, quella, diciamo, del diritto canonico medievale, che naturalmente è una prospettiva appunto peculiare attraverso cui si guarda a questi problemi della norma, no? E degli ordinamenti, della nascita degli ordinamenti, e in particolare sull'invenzione della norma giuridica. Il diritto canonico mi sembra che offra proprio, diciamo, un terreno privilegiato di osservazione sulla nascita del diritto e anche sulla vitalità e la varietà delle espressioni normative con cui, diciamo, abbiamo a che fare. E penso, diciamo, persino, ecco, la norma canonica che veste la forma della decretale, quindi, diciamo, l'espressione più nota della volontà del legislatore, manifesta una natura complessa, propria di una pronuncia in fondo su un caso singolo, alla stregua un po' del rescritto imperiale, però che ha assunto una validità generale, quindi, diciamo, una norma, la decretale, che in fondo muove dal particolare all'universale, elaborando dal fatto la previsione, diciamo, astratta. E sicché la fattualità con cui, per esempio, il singolo ecclesiastico entra in relazione nell'amministrazione del suo ufficio può costituire un'occasione per la concettualizzazione normativa, diciamo, del legislatore. Qui si tratta, diciamo, di un principio, si può dire, giurisprudenziale, che entra però nella tradizione normativa della Chiesa, modificandosi in relazione con le altre norme, anche quando, e questo, diciamo, su questo volevo soffermarmi, a contenerlo sia un testo privo, per esempio, di alcuna stabilità testuale o addirittura del crisma dell'ufficialità. Penso alle decisiones della Rota Romana, che, diciamo, pur avendo avuto il valore, proprio la forza di precedenti vincolanti, o quantomeno, diciamo, hanno avuto la capacità di avviare degli stili all'interno della curia, del tribunale e anche esternamente, eppure sono sempre state raccolte in collezioni rimaste quasi sempre, diciamo, private, così come le decretali extravagantes, appunto vaganti fuori da delle collezioni ufficiali di diritto canonico, e in questi casi il contenuto normativo ha mantenuto tutta la sua cogenza nonostante la mancanza di una collocazione stabile dentro l'ordinamento e quindi di una cornice sistematica in cui inserirsi. Penso, diciamo, sempre ovviamente a quello di cui mi sono occupata, quindi interrogando un po' le esperienze normative con cui mi sono confrontata, penso appunto all'inizio del 1500, quando l'editore del Corpus Iuris Canonici doveva dare un'immagine dell'ordinamento giuridico medievale e non si è limitato a prendere, diciamo, le collezioni ufficiali, ma ha sentito ovviamente il bisogno di selezionare, per esempio, queste decretales extravagantes e di riunirle in una collezione, appunto, chiaramente privata, perché fatta da lui, delle decretales extravagantes comunes. E perché erano in fondo delle decretali entrate delle norme, quindi entrate nella tradizione giuridica medievale, attraverso in fondo un sistema di rinvii creato dai glossatori e dai commentatori con il resto delle norme. Allora, diciamo, come sull'invenzione di una norma, come si può costruire per esempio un ordinamento tra i tanti modi, mi sembra, diciamo, anche per esempio che vada sottolineato il ruolo della stampa, specialmente per esempio tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, che mi sembra, ho potuto diciamo vedere, che svolge un ruolo, ha svolto un ruolo di primo piano nella definizione di un ordinamento giuridico, in particolare canonico. Infatti, per esempio, i primi editori quattrocenteschi hanno selezionato le norme medievali circolanti nei manoscritti, sempre possiamo per esempio pensare alle Decretales Extravagantes, e le hanno traghettate nell'età moderna, conferendogli una stabilità, un'uniformità testuale e quindi una circolazione, un'applicazione nei tribunali. Così facendo ne hanno di fatto rinnovato la portata normativa, inserendole in una diversa sistematica istituzionale, quella diciamo dell'età moderna. E allora diciamo un ruolo significativo, anche se spesso è sottovalutato, quello esercitato per esempio dall'editoria giuridica nella fissazione delle norme dentro un ordinamento, chiaramente diciamo specialmente all'inizio dell'età moderna, tra Medioevo ed età moderna. Allora mi sembra che un altro aspetto che si può diciamo considerare, su cui diciamo, ci si può interrogare, è in un discorso sull'invenzione delle norme, è quale misura diciamo abbia avuto la vigenza diciamo di una norma, in che misura sia stata condizionata anche dalla sua tradizione testuale, oltre che naturalmente, come appunto ricordava, dalla lettura che ne hanno dato i giuristi medievali e dall'applicazione che ha incontrato ovviamente nei tribunali. Io posso prendere un esempio che è quello diciamo della bolla di Bonifacio, la bolla Unansantam di Bonifacio VIII del 1302, di cui tutti conosciamo diciamo il valore teologico, filosofico e giuridico nel contesto dei rapporti proprio tra la Francia di Filippo il Bello e la Chiesa di Bonifacio VIII. Questa decretale ha avuto una circolazione per nulla diciamo lineare, e perché era stata sconfessata diciamo da Clemente V, quindi non inserita per esempio nella collezione ufficiale delle Clementine, ciò nonostante ha continuato diciamo proprio per la sua fama, che era troppo ampia, a circolare, quindi non è stata dimenticata nei registri pontifici, e ha circolato nelle instabili appendici diciamo delle collezioni ufficiali, quelle appendici che servivano a integrare appunto con le nuove norme, finché poi appunto l'editore Jacques Chapuis non l'ha inserita dentro l'Extravagantes Communes, dandogli finalmente diciamo una collocazione stabile. Ora però diciamo prima questa circolazione, questa collocazione instabile, per esempio, ha condizionato fortemente l'attività esegetica intorno a questa norma e quindi proprio il valore giuridico, possiamo dire, di questa norma, perché non è stata inserita nei corsi universitari, non è stata presa in considerazione nei commentari, quelli chiaramente diciamo principali, e ha avuto tutti i commenti particolari di diverso orientamento, nonché di attribuzione molto incerta. Allora, per esempio, diciamo in questo caso, ricostruire anche la tradizione testuale, identificare la provenienza di questi commenti è stato diciamo essenziale per capire proprio ecco la bolla diciamo quale significato, che fondamento giuridico ha dato al potere papale, per esempio ecco nel periodo del pontificato di Bonifacio VIII e ovviamente anche successivamente, perché come ogni norma giuridica anche questa decretale per acquistare efficacia aveva bisogno di entrare diciamo nell'ordinamento ed effettivamente in questo caso l'attività esegetica dei giuristi era fondamentale, cioè la glossa serviva per recepire diciamo la norma e inserirla in un contesto, anche in questo caso in cui effettivamente non aveva una collocazione diciamo stabile. E qui poi la bolla ha avuto diversi commenti teologici chiaramente e giuridici, in particolare ne ha avuti tre circolanti diciamo in ambiente giuridico, di cui due sono stati stampati e sono quelli che noi conosciamo nel corpus iuris canonici, e che ci danno un'immagine ovviamente di questa norma, ci danno una lettura, un certo significato. Ancora tra l'altro all'inizio del Cinquecento lo stesso Chapuis, andando a vedere le sue edizioni, manifesta ancora una lettura incerta di questa norma attraverso appunto diciamo edizioni diverse e quindi sintomatiche di un'instabilità testuale e anche diciamo giuridica come lettura della norma. Questi commenti due, quelli scelti da Chapuis, avevano la glossa di Jean Lemoine, appunto l'autore dell'apparato al Liber Sextus, aveva per esempio dei commenti assolutamente pro-papali, una lettura pro-papale della bolla, e quindi che dava un'immagine chiaramente fedele alla volontà del pontefice, così come l'altro commento, un commento attribuito a Pierre Bertrand. Però se si va a guardare, ecco, questa è l'immagine che noi abbiamo se vediamo per esempio l'edizione cinquecentesca. Se andiamo a guardare nei manoscritti, in realtà scopriamo che sotto il nome dello stesso cardinale Jean Lemoine circolava un altro commento, quindi un'altra lettura di questa norma, che aveva però dei toni completamente diversi. Alcuni addirittura l'hanno definiti dei toni antipapali, in realtà diciamo mi sembra che siano piuttosto dei toni più moderati, che cercano di far rientrare queste pretese diciamo così forti di Bonifacio VIII piuttosto nel rispetto del principio gelasiano, e quindi diciamo un qualcosa che attenua questi accenti. Però insomma diciamo questa circolazione dei manoscritti aveva fatto pensare, guardando a questa circolazione dei manoscritti in cui uno trova questo commento dai toni moderati, sembrava che fosse rimasto inedito e che appunto Chapuis avesse, per dire, scelto l'altro commento. E invece se uno poi va a guardare nelle edizioni incunabole si vede che effettivamente il primo commento ad essere andato a stampa era proprio questo, dai toni invece diciamo antipapali o comunque moderati, attribuito sempre al cardinale Jean Lemoine. Probabilmente questo commento, scritto diciamo in un secondo momento, quando erano cambiate le condizioni politiche, nel 400 offriva una lettura della norma che sembrava diciamo quella più veritiera, mentre nel 500, per esempio, con Jean Chapuis prediligendo l'altra, rovescia diciamo completamente in fondo quella che era stata anche la tradizione testuale di questa norma. Allora, diciamo, ecco, una vicenda chiaramente molto ingarbugliata che qui insomma ovviamente ho sintetizzato, che però mi sembra che mostri abbastanza chiaramente come nella definizione del fondamento giuridico di una norma medievale abbiano giocato un ruolo decisivo una molteplicità di fattori. Primo fra tutti ovviamente diciamo la lettura che ne hanno dati i giuristi, quindi la scienza giuridica, ma non da ultimo anche la stampa che, pur rispondendo diciamo al mercato, alle esigenze del mercato librario, in realtà ha finito per condizionare e orientare anche la cultura giuridica. Poi anche diciamo un altro aspetto che mi è sembrato molto interessante, come può acquistare legittimità o comunque come si forma un ordinamento giuridico, diciamo se c'è bisogno per necessariamente di una sanzione da parte del legislatore, o se questa modifica può avvenire anche un po' diciamo silenziosamente, la nascita di un nuovo modifica o nascita di un nuovo ordinamento. Per esempio diciamo sempre nel 400 il giurista appunto a cui faceva riferimento Arnaud, cioè questo Giovanni Francesco Pavini, un giurista abbastanza sconosciuto, si chiede come uditore della rota romana, quindi come giudice che si trovava ad applicare le norme tutti i giorni nel tribunale, ma anche come giurista è interessato a questo fenomeno della stampa che stava cambiando diciamo la società, si chiede per esempio diciamo se l'ordinamento in atto diciamo da cosa fosse composto, quali erano i formanti diremmo noi oggi, diciamo, con un termine moderno, i formanti del diritto. E insomma, e indicò tre componenti principali: le decretali, appunto, le decisiones e le regole di cancelleria. Però in questo caso si chiese che ruolo avessero. Lui scrive queste regole, si chiedeva che cosa sono, perché facit quasi ius. Allora, in questo caso un giurista, appunto un uditore, un giudice, un professore universitario, si interroga su una fonte esistente da tanto tempo nell'ordinamento, cioè la regola di cancelleria, per comprendere la modifica della sua funzione dentro l'ordinamento. E fino ad allora ne era stato escluso il valore normativo della regola di cancelleria, perché si diceva una legge che perde di efficacia quando muore il legislatore, quindi il pontefice, non può avere un valore normativo. Invece qui, di fronte al crescere della burocrazia, alla tecnicizzazione delle regole di cancelleria che si ha nel 400, questo giurista avverte, per esempio, che qualcosa sta cambiando nell'ordinamento e mette, diciamo, in rilievo come accanto alla legislazione e alla giurisprudenza stia acquistando un rilievo proprio normativo anche l'attività amministrativa. Quindi, diciamo, l'amministrazione e le norme che devono regolare questa amministrazione, quindi le regole di cancelleria. Utilizza la stampa in questo caso per proporre delle collezioni di queste fonti, appunto, giurisprudenza, legislazione, due trattati sull'amministrazione, proprio per promuovere in fondo queste tre componenti, diciamo, dell'ordinamento giuridico, canonico, ecclesiastico tra la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Questo mi sembra, insomma, che possa confermare quello che diceva un po' il professore Alperen nel saggio, cioè che c'è una varietà di modi, per esempio, attraverso i quali può manifestarsi o cessare, diciamo, di esistere un ordinamento. Qui, per esempio, diciamo, non c'è l'intervento immediato del legislatore, per esempio, ecco, nel 400, del legislatore canonico, le regole di cancelleria continuano ad essere prodotte, ad essere raccolte, però vengono inserite come in una nuova gerarchia, diciamo, delle fonti, se possiamo dire. E però questo profilarsi di una nuova normatività, appunto, amministrativa, in grado di disciplinare l'attività amministrativa, mi sembra, o almeno, insomma, anche è capitato di parlarne con Paolo in un seminario, diciamo, che sia speculare un po' un fenomeno che è quello della giuridicizzazione, per esempio, della visita pastorale. E un procedimento ovviamente antichissimo, pastorale, di natura pastorale, quello della visita. E qui l'attitudine amministrativa della visita viene teorizzata, diciamo, e denucleata da parte dei giuristi che fanno propria la riflessione teologica, per esempio, sulla visita pastorale di Gerson Swaubert, e prendono questa loro costruzione, per esempio, dell'immagine nuova del pastore, che si fa, appunto, portavoce, come ha sottolineato Paolo, di una nuova normatività, e costruiscono un nuovo, diciamo, modello prettamente giuridico di visita come modello di inchiesta amministrativa. Allora, questa prefigurazione, diciamo, dei giuristi in termini amministrativi dell'inchiesta canonica mi sembra, appunto, che produca un nuovo, per esempio, modello di normatività, di procedimento di controllo amministrativo. Ed è il caso di una norma che attinge, di una norma, di un procedimento, che naturalmente questa visita ha tutta una serie di previsioni normative che la disciplinano in tutti i dettagli, attinge a piene mani da un principio conoscitivo pastorale, cioè la matrice, ecco, è teologica e la mantiene tutta, perché rimane comunque uno strumento di cura d'anime e che promuove la salute ovviamente spirituale naturalmente, però è anche la risposta normativa e procedurale alle esigenze amministrative della Chiesa, diciamo, quattrocentesca, che all'inizio dell'età moderna prevedeva appunto un nuovo formante del diritto, questo che ovviamente ante litteram possiamo dire diritto dell'amministrazione, con ovviamente molte, molte virgolette. E allora, cioè, per concludere, vorrei riprendere quello che dicevo all'inizio, cioè tutte queste suggestioni effettivamente sul rapporto tra diritto e storia, che almeno insomma io ho ricevuto dalla lettura del saggio, e dire che ovviamente è vero proprio che il diritto cambia di continuo e che ha delle sue storie, cioè più storie, e penso che non potrebbe essere diversamente, già che il diritto è proprio un protagonista della storia della società e non è una tecnica autosufficiente, diciamo, rispetto alla società. Penso anche negli ultimi decenni ci sono stati degli interventi che si sono proposti con dei titoli molto eloquenti, quasi delle chiavi di lettura, diciamo, del rapporto tra diritto e storia. Penso a uno molto piccolo a cura di Emanuele Conte, Il diritto per la storia, e un altro invece molto bello, bellissimo, in due volumi di Ennio Cortese, di una ventina di anni fa, Il diritto nella storia medievale. Allora, a distanza di una ventina d'anni, questi testi mettono da parte il cosiddetto storia del diritto medievale, che ha un po' il sapore di un'introduzione al diritto moderno e contemporaneo, e che devo dire, diciamo, sono d'accordo con il professore Alperen, che sottolineava come, diciamo, c'è sempre un imbarazzo, un po' un timore da parte di noi giuristi, storici del diritto, di vedere marginalizzata la nostra disciplina. E allora, ecco, diritto per la storia, diritto nella storia, il diritto e le sue storie, mi sembra effettivamente che sintetizzino meglio il ruolo di protagonista del diritto, diciamo, nella storia della società. Un ruolo che però sfugge spesso perché forse non si fa lo sforzo di considerarlo in tutte le sue componenti, cioè legislativo, dottrinale, giurisprudenziale, e di riconoscere in ogni argomentazione giuridica un dato propriamente storico, una sorta, diciamo, di cartina di tornasole delle ingarbugliate vicende, diciamo, della società. E quindi, insomma, in fondo anche le storie interne, le storie esterne che isolano il diritto dalla storia e disegnano storie di puri concetti molto coerenti, spesso evolutive, mi sembra che hanno, diciamo, dimostrato tutta la loro dimensione anacronistica e direi anche un po' utopistica, perché hanno proiettato sul Medioevo un diritto, diciamo, molto coerente, una coerenza istituzionale che, insomma, diciamo, riconoscere questo merito al diritto neanche ora, diciamo, che siamo in una fase di decodificazione, mi sembra, ecco, che il diritto non è riuscito a dare questa coerenza istituzionale che invece, diciamo, alcuni tipi di storia attribuiscono addirittura al Medioevo. E nei giorni scorsi, ad esempio, Giorgio Resta, nel convegno che c'è stato, quello La storia del diritto tra testi e tecniche giuridiche, notava come la tendenza dello storico a riscoprire l'importanza dell'avvicinamento filologico al testo vada di pari passo con la tendenza del giurista ad allontanarsi dal testo normativo per avvicinarsi al contesto, che sembra un po' una dissonanza, eppure effettivamente crea quelle condizioni, diciamo, di dialogo vivo tra diritto e storia, tra giuristi e storici del diritto, perché, diciamo, come storici penso che che si può partire, diciamo, dal nostro contesto, dalle questioni del nostro tempo, per guardare al Medioevo e alle fonti, diciamo, medievali, all'ordinamento medievale, senza temere di riproporre schemi evoluzionistici, storie interne, diciamo, esterne, di isolare il diritto, diciamo, dalla sua trama storico-istituzionale. Però viceversa penso che i giuristi dovrebbero, è vero come dice Resta, distogliere un pochino lo sguardo dal testo normativo per guardare al contesto da cui un testo viene, ecco, proviene. In questo modo, in fondo, diciamo, anche il giurista è solo con uno sguardo alla storia che può trovare tutte le verità contro ogni, diciamo, negazionismo, quindi anche comprendere che il vocabolario di un giurista effettivamente si serve di concetti, insomma, di lunghissima durata. E allora se riconosciamo al diritto questo ruolo di protagonista nella storia, è vero, insomma, che il diritto ha più storie, sicuramente quante sono le società che hanno cercato diverso titolo, in diversi tempi, diciamo, di, ovviamente, di disciplinarsi. E allora, insomma, si sottolineava per esempio in questi testi quello, il diritto per la storia, nella premessa, che il giurista dovrebbe essere un po' più storico, avvicinarsi al contesto oltre che al testo, e appunto lo storico, diciamo, anche un pochino più giurista, per guardare con uno sguardo, diciamo, un po' più attento magari a quel vocabolario del diritto, alla grammatica, diciamo, del diritto, solo perché questo non è altro che il riflesso del mondo economico, diciamo, e sociale della società, e che a questo si applica nella legislazione, ma anche, diciamo, nei tribunali, quindi da parte dei giudici. E allora, diciamo, proprio veramente un ultimo esempio, seguendo un po' il dibattito per esempio che c'è stato sulla natura giuridica e non giuridica delle regole monastiche, quindi i lavori di Agamben, di Coccia, sulla regola francescana. Io personalmente non mi sono mai occupata di questo problema della natura giuridica e non giuridica delle regole monastiche, però mi sembra che per lo storico del diritto è molto interessante l'ipotesi normativa, diciamo, di un paradosso giuridico, come è stato detto. Cioè, se le regole monastiche hanno sempre avuto ad oggetto la relazione tra diciamo, la vita stessa, ecco, non tanto la relazione invece tra soggetti e cose, allora individuare la novità, per esempio, del francescanesimo in questo paradosso giuridico, cioè una norma, come appunto alcuni hanno considerato, diciamo, la regola francescana come una norma che è in grado in fondo di annullare il diritto, cioè di creare un vuoto giuridico, quindi veramente un paradosso, cioè concepire la norma che annulla il diritto. Insomma, ecco, mi sembra che effettivamente ora io non posso chiaramente esprimere, resto interessata da un'ipotesi interpretativa di questo tipo, perché mi sembra che, ecco, dimostri un po' i limiti di un metodo che individua soltanto, diciamo, una norma, ecco, giuridica e qualcosa di non giuridico. Effettivamente, diciamo, c'è molto altro tra le due. Ecco, concludo.